il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Questa nuova puntata del quadrifoglio, che sarà l'ultima del 2012, abbiamo pensato di sentire il presidente dell'ARGAV, l'Associazione Regionale dei Giornalisti Agroambientali del Veneto e del Trentino Alto Adige, che è partner in questa nostra trasmissione, Fabrizio Stelluto. Benvenuto Fabrizio. Grazie e benvenuto a voi. Ecco, non è un caso in questa che ti invitiamo anche in questa trasmissione, anche perché qualche giorno fa è stato attribuito il premio ARGAV 2012, che ormai sta diventando un premio anche abbastanza importante nel Veneto, anche per le persone che premia, ad Ilaria Capua, una ricercatrice importante che lavora all'Istituto Zooprofilattico delle Venezie di Legnaro. Ecco, però prima di chiederti delle motivazioni del premio, volevamo chiederti anche qualche cosa di più sull'ARGAV, che cos'è questa associazione che riunisce giornalisti. Come hai detto tu, è un gruppo di formazione, un gruppo di specializzazione della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Noi siamo l'articolazione locale, quindi interessiamo Veneto e Trentino Alto Adige, e la nostra associazione nazionale si chiama UNAGA, che è appunto l'unione delle varie ARGA presenti sul territorio. Lo scopo della nostra organizzazione è quello di fornire strumenti di conoscenza e di arricchimento professionale innanzitutto per i colleghi giornalisti, ma abbiamo un settore dedicato agli associati che non sono giornalisti, ma sono comunque persone che abbiano esperienze da portare in riferimento ai mondi di nostro interesse, che sono l'agricoltura, l'ambiente e l'agroalimentare. Poi abbiamo una dizione molto lunga, interessa anche l'energia, le foreste e quant'altro, ma insomma, tanto per intenderci, il mondo verde. Il mondo verde, sul quale sta tornando un certo interesse, forse anche per motivi proprio concreti: da una parte la crisi che ci spinge a tornare a guardare anche all'agricoltura, dall'altra anche i cambiamenti nel nostro mondo, anche negativi, inquinamento, clima, eccetera, che stanno portando una certa attenzione dell'opinione pubblica su questi temi e che richiedono anche che chi fa informazione sia un po' più preparato, forse, di quanto a volte lo è. Assolutamente, credo che ormai sia un giudizio unanime che il territorio, la sua salvaguardia e il suo sviluppo ecocompatibile sarà la grande sfida degli anni a venire. E quindi, come tu ricordavi, da un lato c'è una riscoperta del settore primario, proprio il piacere anche di coltivare l'orto di casa, ma dall'altro c'è la grande sfida di riuscire a gestire questo territorio che continuiamo a urbanizzare selvaggiamente invece in maniera compatibile. E d'altronde gli eventi climatici delle ultime settimane stanno lì a dimostrare che c'è bisogno di investire, quantomeno in Italia, fortemente sulla difesa idrogeologica. I dati del Ministero dell'Ambiente parlano di oltre 40.000 milioni di euro per mettere in sicurezza il nostro territorio, quindi una sfida davvero importante. Per riuscire a raccontarla e per riuscire in qualche maniera a presentarla in maniera adeguata, certo, c'è bisogno di preparazione da parte di tutti, soprattutto da parte di noi giornalisti, e noi, insomma, nel nostro piccolo proviamo a darne gli strumenti. Certo. E veniamo adesso al premio ARGAV, un premio che ormai da un paio di decenni, credo, i giornalisti agroambientali dell'ARGAV danno a delle personalità del Veneto, del Trentino Alto Adige. Che cos'è questo premio e perché è stata premiata Ilaria Capua quest'anno? Allora, in realtà il premio era nato come premio giornalistico, infatti per moltissimi anni si sono premiati colleghi meritevoli, poi da 3 anni a questa parte abbiamo deciso invece di dargli una svolta e di dare questo riconoscimento a personalità che illustrino con la loro attività il nostro territorio. Naturalmente parliamo di persone che in ogni caso abbiano attinenza e riferimento a quell'elemento che si chiama territorio cui noi ci rivolgiamo. E quindi 3 anni fa abbiamo premiato l'attore Marco Paolini, l'anno scorso Beppi De Marzi, poeta, cantore, mentore di tutti i cori di montagna italiani, e quest'anno invece la nostra attenzione è andata ad Ilaria Capua, che è la responsabile del Dipartimento di Scienze Biomediche Comparate dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. E la motivazione con la quale l'abbiamo premiata è quella di aver voluto innanzitutto testimoniare il nostro impegno civile a favore dello sviluppo della ricerca, e con questo piccolo gesto che però abbiamo voluto fare sia con il cuore che con la testa, abbiamo voluto rendere merito a quanti quotidianamente sono impegnati a studiare i molteplici aspetti della vita. Nel caso specifico, poi, va anche riconosciuto, e questo abbiamo voluto significare con il premio, l'ammirazione per una scienziata, Ilaria Capua, che nel momento dell'emergenza influenza aviaria scelse, al lucroso richiamo delle multinazionali, l'interesse di una sanità pubblica a disposizione di tutti. Questo fu una scelta addirittura rivoluzionaria. Detto questo, l'altro motivo per cui l'abbiamo premiata, abbiamo voluto anche in qualche maniera scusarci come operatori di un'informazione che, come abbiamo appena detto, vorremmo anche più responsabile, abbiamo voluto scusarci per non riuscire a porre adeguata luce sul lavoro che lei e la sua equip stanno svolgendo. Adesso la sfida per il 2013 potrebbe essere proprio quella di riuscire a far dialogare Ilaria Capua, Beppi De Marzi, Marco Paolini, magari anche qualche altro soggetto che individuiamo nel corso dei prossimi mesi, attorno ad un tema che ci pare importante, quello della ricerca. E come si usa dire, se la ricerca non deve avere colori, beh, ancora meno può avere confini. Grazie allora Fabrizio Stelluto, grazie sia per questa tua presenza oggi, sia per la collaborazione dell'ARGAV a questa nostra trasmissione. Grazie a voi, naturalmente, buone feste a tutti. Altrettanto. Ci fermiamo un attimo, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Torniamo in onda con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi abbiamo parlato di Ilaria Capua, premiata dall'ARGAV, Associazione Giornalisti Agroambientali del Veneto e Trentino Alto Adige. Ne abbiamo parlato con Fabrizio Stelluto. In occasione della premiazione sabato 15 dicembre abbiamo avuto l'occasione anche di porre un paio di domande alla stessa Ilaria Capua, che adesso le ascoltiamo. Ilaria Capua, allora, in questo periodo è su tutti i giornali per varie motivazioni, ma quello che noi volevamo chiederle è: qual è il significato del lavoro che voi svolgete all'Istituto Zooprofilattico e quali sono i contenuti e gli ambiti di ricerca su cui state lavorando? Ma il mio gruppo è un gruppo che si occupa soprattutto di malattie virali degli animali ed in particolare di quelle che si possono trasmettere all'uomo. Quindi noi abbiamo una importante attività di diagnostica e di ricerca a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, soprattutto con i paesi in via di sviluppo, appunto per aiutare questi paesi a combattere delle potenziali epidemie. Quindi noi interveniamo cercando di controllare l'infezione nel serbatoio animale prima che diventi un problema importante per la salute pubblica. In questo momento ci sono delle situazioni su cui state lavorando in particolare? Che cosa ci possiamo aspettare in questo settore nel futuro, e anche la ricerca scientifica a che punto è sul difenderci un po' da questi problemi possibili? Ma allora, in realtà, anche se non se ne parla più di influenza aviaria è ancora presente ed è solo di là del Mediterraneo. L'Egitto sta vivendo una situazione molto critica e noi siamo, insomma, attivi nel cercare di dargli una mano. Ci sono poi una serie di altre infezioni sulle quali noi lavoriamo, in particolare sulla rabbia. Proprio recentemente, la settimana scorsa, abbiamo ricevuto il titolo, insomma, il laboratorio è stato riconosciuto come laboratorio di referenza internazionale per la rabbia dalla FAO. Il laboratorio di Padova, di Legnano in particolare, è additato come una delle eccellenze italiane nell'ambito della ricerca scientifica. La situazione, come si può migliorare questo in Italia, perché l'Italia possa anche contare dal suo contributo, visto che le menti, a quanto pare la storia ci ha dimostrato che ci sono, ma dobbiamo anche aiutarle ad emergere. Ma io ho lanciato un appello agli Stati Generali della Cultura che si sono tenuti a Roma il 15 novembre in presenza del presidente Napolitano e dei ministri, e ho chiesto un'attenzione particolare per i ricercatori eccellenti di questo paese. Bisogna evitare che i ricercatori si demoralizzino e decidano di andare all'estero, perché se l'Italia perdesse anche metà dei ricercatori eccellenti che ha, l'Italia rischia di non riprendersi più. Ringraziamo Ilaria Capua per il suo contributo alla scienza, in particolar modo alla comprensione dell'influenza aviaria, sia anche per questa sua testimonianza. Passiamo ora ad alcune notizie. Il rapporto Quali Vita Ismea 2012 sulle produzioni agroalimentari, realizzato per il Ministero delle Politiche Agricole, conferma che l'Italia è leader mondiale per numero di produzioni certificate, con 248 prodotti iscritti nel registro dell'Unione Europea, di cui 154 DOP e 92 IGP. Nella classifica dei prodotti più blasonati, il parmigiano reggiano si è classificato al primo posto nel 2011 con un fatturato al consumo di 2,29 miliardi di euro, in crescita del 15% rispetto all'anno scorso. Seguono l'aceto balsamico di Modena, il grana padano, il prosciutto di Parma e la mela IGP dell'Alto Adige. 9 sono state le produzioni italiane registrate in Europa nel 2012, nessuna però veneta. Per quanto riguarda il volume d'affari del comparto delle DOP e delle IGP, gli analisti hanno stimato nel 2011 un potenziale di 6,5 miliardi di euro alla produzione e di circa 11,8 miliardi di euro al consumo, di cui 8,5 sul mercato nazionale. I dati produttivi sono in aumento se confrontati ad altri settori, anche perché le DOP portano innovazione e sviluppo, ha commentato Mauro Rosati, direttore generale della Fondazione Quali Vita. Venerdì 28 dicembre, dalle 9 alle 13, presso il centro Po di Tramontana di Veneto Agricoltura, a Rosolina, in provincia di Rovigo, sarà visitabile un confronto varietale di piante poinsettia, ovvero stelle di Natale. Saranno esposte oltre 300 varietà in vaso da 17, 14 e 10 cm dei principali costitutori, comprese varietà in fase pre-commerciale e in test. Sarà presente inoltre una prova di coltivazione in tunnel a bassa temperatura con circa 90 varietà. Tutte le prove sono comunque visitabili previo appuntamento anche nel periodo prenatalizio, telefonando allo 0426 664917. Il 12 dicembre scorso a Roma è stato festeggiato il ventennale degli oli a denominazione di origine protetta. Da allora le DOP IGP in Italia sono arrivate a 43 riconosciute, ovvero il 40% di tutti gli oli a denominazione europei. Dominano la scena l'IGP toscano e la DOP Terra di Bari, che rappresentano insieme più del 60% dell'olio certificato italiano. Eppure la quota di mercato degli oli DOP rimane bassissima, circa il 3%. Molti i problemi che ancora assillano le DOP, come ha ricordato Daniele Salvagno, vicepresidente di FederDOP. La frammentazione della realtà produttiva, l'assenza di un'organizzazione dell'offerta, lo scarso coordinamento tra attori pubblici e privati, la carenza di strumenti adeguati per affrontare la concorrenza estera sono i principali problemi, secondo Salvagno. In tutto questo ha subito uno stop inatteso l'iter della proposta di legge in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli d'oliva vergini, strumento ideato per rafforzare il contrasto alle attività criminali che nel settore olivicolo costituiscono una grande piaga economica e sociale. Il Parlamento europeo, nella seduta del 12 dicembre, ha invitato la Commissione a garantire un'applicazione efficace e uniforme della legislazione esistente dell'Unione sul trasporto degli animali in tutti gli Stati membri, constatando che persistono gravi problemi dovuti alla scarsa osservanza negli Stati membri delle direttive comunitarie. Il Parlamento ha quindi chiesto di mettere in atto un'ampia campagna di informazione al consumatore sulla normativa europea in materia di benessere animale. Nel periodo di riferimento 2005-2009 il numero di animali trasportati è aumentato significativamente, dell'8% per i bovini, del 70% per i suini e del 3% per gli ovini. Solamente per gli equini si è registrata una diminuzione di circa il 17%. I 2/3 delle consegne sono trasporti della durata inferiore a 8 ore, mentre il 4% è più lungo del massimo tempo di viaggio concesso e perciò richiederebbe lo scarico del bestiame e il riposo prima di continuare il viaggio. Con questa notizia è tutto per questa trasmissione, ma anche per quest'anno. Noi ci risentiremo infatti a gennaio. Vi auguro buone feste. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.